Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Magazine 24, appuntamento tutti i sabati, tutte le domeniche con le riviste, i mensili settimanali italiani e stranieri in edicola. Compito facilitato nell'esordio questa mattina dalla citazione d'obbligo per 24. Chi magari ci segue via via nelle settimane avrà forse intercettato la puntata in cui la responsabile di 24, la collega Fernanda Roggero, ci anticipava alcuni contenuti del numero che trovate da ieri in vendita con il Sole 24 Ore. 24 è mensile, il magazine proposto appunto dal Sole 24 Ore. In questo mese ha compiuto un'operazione molto bella, molto inconsueta, cioè ha dedicato l'intero numero al design. Naturalmente questo è dovuto alla concomitanza del Salone del Mobile che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Milano. Milano, vi possiamo confermare che è molto invasa, molto pervasa dal design e l'afflusso, il successo del Salone del Mobile, insomma, può essere anche un segnale positivo per tutti noi, per l'andamento dell'economia. 24, dicevo, dedica il suo numero al design con una particolarità, perché in copertina la parola chiave design è poi seguita da un punto interrogativo, cioè che sta a indicare cosa significa design. Perché design? A che ci serve il design? E a questa domanda così breve, design punto interrogativo, rispondono poi nel numero, nelle pagine di 24, diversi designer che a loro volta propongono altre domande sul design, danno risposte sul design. Un'altra particolarità di questo numero che, se siete lettori frequenti di 24, potrete apprezzare è che le modalità di impaginazione, la grafica adottata, anche le immagini scelte sono diverse dal solito. Perché? Perché tutta la cura grafica è stata rivisitata da Fabio Novembre che appunto architetto e designer ha ripensato un po' 24 per questa circostanza. Allora, innanzitutto il tema del mese, vi dicevo, è questo design. Le pagine del magazine sono, come spiega lo stesso Novembre nella sua prefazione, attraversate da un flusso di immagini, immagini che portano ad associazioni visive, associazioni concettuali, una sorta di panoramica, insomma, su cos'è il design adesso e come questo punto di congiunzione in qualche modo tra l'espressione artistica e quella industriale può aiutare tutti noi, insomma, anche dal punto di vista economico, se ci leghiamo alle rassegne come il Salone del Mobile. Molto carina la trovata con cui Novembre sceglie di reinterpretare il sommario. Ci sono più tappe, 6 tappe appunto del rapporto del design con la realtà. Si va dall'umano al domestico, al mobile, poi il tecnologico, l'obsoleto e infine il terrestre. Qua e là nel numero impossibile descrivervi solo con le parole la ricchezza anche visiva di questa rivista che, ripeto, trovate da ieri in vendita con il Sole 24 Ore. Ma dicevo, qua e là nel numero una serie di domande, ad esempio qualcuna anche, diciamo, fulminante. Dice Oscar Farinetti, che è il fondatore di It Italy a Torino, dice: io sto progettando un negozio che venda solo domande, perché mi sono stufato di vendere risposte, vorrei un negozio pieno zeppo di domande dove ciascuno possa trovare una bella domanda per sé oppure una domanda da regalare. A volte una buona domanda può dare più conforto di una risposta, una bella domanda come: ma siamo sicuri che le certezze siano meglio dei dubbi? E voi a che prezzo vendereste questa domanda? Io questo negozio, spiega Farinetti, lo vorrei chiamare Perché, però senza punto di domanda, come invece è il numero di 24. Questo è il negozio di domande chiesto, suggerito da Farinetti. Il numero poi, il numero di 24, ha un'estensione digitale importante perché ci sono 273 immagini che vengono arricchite da video scaricabili con uno smartphone, con uno dei telefoni di ultima generazione, con la tecnologia del codice QR, che, come sapete, è quella tecnologia che permette, riprendendo un quadratino fatto di punti neri e bianchi, di poter poi accedere a dei contenuti rimandati su un sito. Ma questo lo trovate poi meglio sempre su 24. Ancora ultima citazione dal magazine del 24 ore, sempre dedicato al design, una bella doppia pagina con i tweet, ma si potrebbe dire gli aforismi se volessimo usare un termine meno tecnologico, di Marcus Fers, che è il fondatore di The Zen. The Zen è un blog, il blog di design che è più visitato al mondo. I redattori di 24 hanno selezionato una serie di questi lanci e alcuni sono effettivamente particolarmente curiosi. Dice a un certo punto Fers: la cosa strana è che quando ti risponde un robot di un customer service, cioè di un servizio clienti, questo robot di solito registra le tue lamentele, al contrario degli addetti che si scordano sempre di farlo. Oppure oggi, scrive sempre Fers, ho parlato con il servizio automatico del customer service di Apple, sentivo un rumore di fondo come se il robot stesse battendo a macchina quel che dicevo. Straordinario, effettivamente è abbastanza straordinario pensare che forse hanno immaginato addirittura una sorta di interrelazione col cliente, in modo da dare al cliente che telefona l'impressione che, nonostante la risposta automatica, ci sia una reazione di tipo umano, come prendere nota. Poi un appello ai suoi colleghi designer, anche questo, visto che è un po' la settimana questa del design, lo leggiamo volentieri. Designer, fateci un favore, lasciate la cucina agli chef, scrive Fers, io sono denutrito dopo due serie di immangiabili e noiosissime cene design. Questo, in questo tipo di appuntamenti mondani, forse qualcuno si riconoscerà. E poi una considerazione quasi sociale di Fers, che dice: mi si è rotta la tracolla della borsa porta computer. Adesso che la tengo per il manico, la mia andatura è cambiata e cammino come un medico o come un avvocato. E allora, abbiamo parlato di design. Il design è, come vi dicevo, presentissimo qui a Milano in questi giorni, ma un po' anche su tutte le riviste. Molte delle riviste che trovate in edicola hanno rilanciato, hanno presentato oggetti di design, si sono appoggiate in qualche modo all'evento del Salone del Mobile. Tra l'altro, il Sole 24 Ore sta proponendo una collana in 20 volumi che si chiama I Maestri del Design. La prima uscita di questa collana è dedicata a Gio Ponti e il numero che trovate in edicola è a un prezzo di favore, perché a 4,90 euro, più naturalmente l'acquisto del quotidiano, con le immagini delle creazioni più importanti di Gio Ponti, suddivise appunto per anni e per categorie, dalla sedia, insomma, chi poi ha visto, ha in mente questo grande architetto e designer, ha presente insomma di cosa parlo. Proprio in copertina sui Maestri del Design campeggia la sedia di Gio Ponti, che è a suo modo un punto di riferimento per questo tipo di lavori, ripeto, a metà tra l'industriale e l'artistico. Cambiamo completamente argomento, anzi andiamo all'estero. Curiosa, una pagina che viene proposta da Newsweek questa settimana, che viene intitolata Come vivere per sempre. In realtà si intende come vivere un po' più a lungo. Che cosa hanno fatto? Hanno provato a mettere insieme, anche un po' confusamente, volutamente, in modo confuso, quello che proviene dalla ricerca scientifica, dalle varie statistiche, insomma tutte le varie indicazioni che ci suggeriscono, ci dicono come potrebbe, quali possono essere le nostre maggiori possibilità di vita. Naturalmente, al primo posto, se volete vivere di più, vi conviene nascere donna, perché, come sappiamo, le donne hanno un'aspettativa di vita superiore agli uomini. Però via via, appunto, curiosando nella pagina, si trovano degli altri consigli per vivere più a lungo. Ad esempio, lavarsi accuratamente i denti tutti i giorni sarebbe una di quelle cose che aiuta a vivere più a lungo, così come essere ottimisti aiuta a vivere più a lungo, o nutrirsi con una dieta mediterranea. Queste sono più o meno cose note. Forse meno noto il fatto che viene consigliato, tra le altre cose, ma Newsweek non cita poi da quali puntuali ricerche o statistiche provengano questi dati, viene consigliato anche di bere almeno due tazze di tè al giorno. Questo sarebbe uno dei dati, dei comportamenti che aiutano appunto a vivere meglio. Una delle cose che possono favorire già alla nascita, quindi non dipendono dalle nostre scelte, ma da come siamo nati, è il fatto che nostra madre abbia meno di 25 anni al momento della nostra nascita. Pare appunto, secondo le statistiche, che questa circostanza sia alla base delle persone che sono più più longeve. E poi, come vi dicevo, ci sono altri consigli. Ad esempio, se siete appassionati dell'esercizio fisico, ma non siete portati a esagerare con l'esercizio fisico, ecco, questo è un altro dato che viene confermato dalla ricerca scientifica, dalle statistiche, aiuta a vivere più a lungo. Tutti questi consigli poi sono rappresentati graficamente in una pagina, come vi dicevo, su Newsweek di questa settimana. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato di tempo presente, abbiamo parlato di design, anche di come vivere più a lungo secondo i vari consigli che si possono mettere insieme dalle statistiche. Adesso voglio fare invece un passo all'indietro. Sull'Europeo questo mese trovate, come sempre, una raccolta di articoli usciti su questa rivista negli anni passati, nel secolo scorso. Molto interessante il fatto che abbiano scelto nel numero di aprile di riunire articoli di grandi inviati. Il tema che viene presentato in copertina è Professione cronista, l'avventura quotidiana. Ci sono testi, avverte la stessa copertina, di Lina Coletti, Massimo Dini, Oriana Fallaci, Mino Monicelli, Alberto Ongaro, Franco Pierini e Lanfranco Vaccari, e poi 12 articoli, anche un articolo inedito di Ettore Mo. All'interno è bello trovare una sorta di giuntura tra passato e presente in una corrispondenza di Franco Pierini, che appunto scrisse della rivoluzione di Gheddafi nel momento in cui questa stava accadendo, cioè nel settembre-ottobre del 69, nel 1969. Vi leggo qualche brano, perché poi ci sono delle ricorrenze che Pierini notava nel 1969 che oggi forse ci aiutano a comprendere anche quello che sta succedendo nel presente. Dice: il fatto che ha deciso il destino della Libia, racconta Pierini, è stato una cena di cameratismo fra ufficiali in servizio attivo e militari in congedo, una cena che è avvenuta al ristorante dell'hotel Wadana Tripoli la sera di domenica 31 agosto 1969. Per settimane gli invitati di questa cena sono stati selezionati da un gruppo ancora piuttosto misterioso di organizzatori, che non avevano particolari preoccupazioni nella scelta del menù, ma erano tutti presi da problemi relativi alla scelta politica che ritenevano necessaria per il loro paese. E a causa di questa cena ora siamo qui per cercare di capire che cosa stia accadendo in Libia. Quindi tutto parte da questa cena, da questo colpo di Stato. Il programma di allora, come riferisce lo stesso Pierini, era chiaro. Dice: il menù, giocando sempre sul fatto della cena appunto, prevedeva la fine della monarchia, l'istituzione della Repubblica Araba di Libia, il secondo la creazione di un paese di orientamento socialista arabo, il terzo un allineamento sulle posizioni dei paesi arabi cosiddetti progressisti, però con un atteggiamento di moderazione che farà della Libia, questo stava nel programma dei rivoluzionari, un esempio straordinariamente interessante nel quadro dell'Arabia moderna. Mentre scriviamo, spiega Pierini, questa storica cena continua ancora, e a Bengasi e in alcuni centri della Cirenaica, di questa terra poi era originario Idrissa Yalsenussi, che era il re deposto appunto da Gheddafi, l'entusiasmo non era così forte. E ora, se pensiamo, interrompendo un attimo la lettura di Pierini, se pensiamo a quello che sta accadendo appunto con la guerra di Libia e alla rivolta della Cirenaica, ecco che già dalla lettura di questo articolo del 69 possiamo capire che questa rivolta ha radici molto molto antiche. L'entusiasmo, dicevo, a Bengasi e in altri centri della Cirenaica non era così forte, anzi c'è stata lì una profonda tristezza, si è sparato un po' ovunque in Libia in questi giorni. Così racconta Franco Pierini sull'Europeo nella sua ricostruzione della rivolta, appunto della rivoluzione che ha portato al potere Gheddafi. Come sempre poi propone l'Europeo alla fine dell'articolo una serie di precisazioni che dicono com'è andata a finire. E com'è andata a finire in Libia lo sappiamo, lo stiamo vedendo, in realtà le cose non sono ancora propriamente finite, ma appunto si racconta come dopo il golpe del 1 settembre del 69 Gheddafi sia rimasto ininterrottamente al potere, e poi appunto nel febbraio scorso dalla Cirenaica Mosca sia partita una rivolta con una violenta reazione del regime. Il resto è la cronaca che leggiamo nei quotidiani tutti i giorni. Ancora dall'europeo, ma è davvero solo un consiglio di lettura, anche per motivi di tempo, ma anche, devo dire, per la bellezza dell'articolo, la corrispondenza di Oriana Fallaci dal Vietnam nel 1968. Il titolo dice: sono qui per capire ma ho paura. Ecco, su questo binomio di volontà di capire, curiosità per quello che sta accadendo e la paura, l'umanissima paura che è quella della cronista ma è anche poi quella dei soldati, Oriana Fallaci costruisce un articolo a suo modo bellissimo e che restituisce, diciamo, molto di più di quello che forse ci hanno poi raccontato successivamente anche i film girati a Hollywood proprio sulla guerra del Vietnam. Oriana Fallaci, ripeto, su l'europeo del mese di aprile, che trovate in questi giorni in edicola. Veniamo al tempo presente, allora, perché sull'Espresso, visto che restiamo all'estero, si parla di Cuba, perché oggi comincia un congresso, proprio oggi, che potrebbe essere molto importante, il sesto congresso del Partito Comunista, che intende avviare l'isola a un esperimento di libero mercato. Spiega Gianni Perrelli sull'Espresso, nel suo reportage sull'Espresso, che si fa riferimento a una formula mutuata in maniera un po' fumosa dai modelli del Vietnam o della Cina, che hanno però dimensioni, materie prime e manodopera qualificata infinitamente superiori alle asfittiche risorse di Cuba. Il passaggio appunto verso l'economia di mercato, l'avvio verso l'economia di mercato a Cuba è l'oggetto di questo lungo reportage di Perrelli che trovate sull'Espresso, un passaggio che già è cominciato. Dice: sulla strada, racconta Perrelli, è già tutto un fiorire di attività in proprio che un tempo erano illegali. C'è l'ortopedico sessantenne che non può sopravvivere con la pensione, $10 al mese, e fa il tassista privato. La vedova che impasta i dolci a casa, poi li vende per strada in un chiosco, l'ingegnere che per $18 al mese dirigeva una raffineria e adesso trova più conveniente fare il calzolaio. A dirigere queste neonate attività economiche i rampolli della nomenclatura politica, militare e artistica, segmento abbastanza agiato che include circa l'8% della popolazione. Da oggi quindi comincia questo congresso che potrebbe segnare la svolta all'economia di mercato. E come ultima indicazione, prima di chiudere, prima di salutarci, un consiglio per il nostro presidente invece italiano: è periodo di dichiarazione dei redditi, come sempre di questi tempi il Sole 24 Ore vi propone la guida per compilare il modello 730, la guida al modello 730 per una dichiarazione senza errori, è la nostra proposta, €5,90 in edicola con le caratteristiche del modello e poi anche una chiave d'accesso per poter tramite internet avere il software per compilare il 730 e anche un videocorso, una serie di quadri interattivi che aiutano appunto a preparare la dichiarazione dei redditi. Con quest'ultima segnalazione, ohimè, dedicata alle tasse, si conclude la puntata di Magazine 24 di oggi. Grazie a Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Magazine 24 ritorna domani mattina.